bye bye bye bye bye bye bye bye bye. Pronuncio giusto il tuo nome proprio bye. Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye. Sul tuo pianeta dimmi il reggae te lo fai. Mai mai mai mai mai. La destra in giù, la destra eccola qua. Sinistra in su, sinistra eccola qua. Riunire dai, ma in politica che fai? Che dici mai? E da voi c'è partiti non c'è me. Si spara o no? Armarsi non si può. La grana c'è. Bye bye bye bye bye. Ma tu l'amore sul pianeta te lo fai. Bye bye bye bye bye. Bye bye bye bye bye. Non ho capito bene, un uomo tu ce l'hai. Bye bye bye bye bye. A te. Mi sento tanto mai. Bye bye bye bye bye. Bye bye bye bye bye. Amore reggae insieme a me in paese.